9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori da Oscar Giannino, buon inizio settimana. Sui giornali da alcune settimane lo vedete come un gladiatore, la mano destra che bilancia una spada sguainata con qualche stilla di sangue in punta, l'orica, corazza, schinieri, sguardo deciso, ha beccato qualche colpo, c'è una cicatrice in faccia, si chiama l'Italico, è un gladiatore e sullo sfondo c'è il Colosseo e si batte per il Made in Italy, è un imprenditore di Bologna col quale insieme a protagonisti della battaglia a difesa del Made in Italy faremo il punto. C'è bisogno di spada, corazza? Beh sì, c'è bisogno anche solo di non prenderla in un paese in cui i tedeschi ci mandano la mozzarella blu, insomma, e quindi bisogna battersi con i concorrenti sapendo che il mercato aperto è un mercato in cui la qualità ha bisogno di grande dedizione e anche talvolta di gladiatori. Abbiamo collegato con noi innanzitutto l'imprenditore protagonista di questa campagna di sensibilizzazione attraverso la pubblicità, che è Carlo Chionna. Carlo Chionna, un imprenditore bolognese, fondatore di Jackerson, una grande marca di abiti casual italiani, che poi gli ha consentito con un grande successo di diventare patron del marchio di abbigliamento 9.2, che è quello che firma proprio questa campagna. E quindi grazie a Carlo Chionna innanzitutto. Un buongiorno. E poi abbiamo con noi Lara Commi. Lara Commi è la vicepresidente della Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori ed è relatore al Parlamento Europeo proprio per il tessile e per alcuni importanti progetti che esattamente inquadrano quello di cui parliamo oggi, per tentare di batterci meglio nella sede europea, dove tradizionalmente i grandi paesi nord europei, diciamo, hanno le armi affilate in questo. E con lei tenteremo di riflettere sulle asperità e anche però sulle prospettive di questa battaglia. Grazie all'onorevole Commi, buona giornata. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Chionna, come le è venuta questa ideuzza così tagliente? Ma tutto è nato da siamo arrivati a un punto che non se ne poteva più, eravamo disperati perché ho visto delle realtà chiudere, soprattutto a livello produttivo, e non volevo contribuire per far sì che rimanessero aperte. E quindi vedendo fabbriche che chiudevano, operai che andavano a casa, tutto quanto a discapito magari di un Made in China che qualitativamente, anzi non lo definirei neanche qualitativamente, è qualità zero. Quindi ho deciso di entrare nell'arena e lanciare questo messaggio a tutti quanti gli imprenditori che si comportassero in modo decoroso e etico, quindi di ritornare a posizionare le loro produzioni in Italia per cercare di dare una qualità, perché quello è l'unica cosa che ci rimane. Non possiamo competere con i prezzi dell'estero, però la qualità non ci manca, perché abbiamo secoli e secoli di storia nell'abbigliamento e quindi dobbiamo assolutamente tenerlo, questo valore tenendo molto alto. Senta Chionna, lei ha immediatamente iniziato con un passaggio un po' scabro. Siccome io non mi tiro indietro, oggi questa puntata è fatta anche, questa è la radio di Confindustria, ma io quando faccio il conduttore non mi fermo di fronte alla questione della tutela dei grandi nomi di Confindustria. Tentiamo di far capire meglio chi è a casa, perché lei a un certo punto ha detto, ed è uno dei punti centrali della sua campagna, il mio è un appello agli imprenditori italiani a essere corretti, cioè a non prestare il fianco, per così dire, alla concorrenza sleale a casa nostra. Lei ha citato i cinesi, che e fa bene, perché è uno dei punti che tutti avvertono e toccano con mano. In cosa si configura questo prestare il fianco di alcuni suoi colleghi imprenditori? Molto semplicemente produrre anche all'interno della nostra Italia. Lei conosce bene la realtà del Pratese, che è una città ormai, direi una Chinatown, perché io tutte le volte che vado, che compro dei tessuti da un unico imprenditore a Prato, rimasto proprio totalmente al 100% Made in Italy, una filiera che un'azienda verticalizzata che parte dal filo e arriva al tessuto, non c'è una persona estera all'interno, cioè per dire una persona straniera. Questo è già il punto principale. Dobbiamo assolutamente riportare tutto quello che è fuori, portarlo qui, e da parte dei politici dovrebbero incentivare le aziende, magari facendo defiscalizzandole, perché non è giusto che io debba pagare le stesse tasse che paga un'altra persona che va fuori all'estero, o perlomeno con le dogane, regolamentarle con le dogane. Se vai fuori a produrre, bisogna che tu, quando rientri con i prodotti fatti interamente all'estero, vengano tassati molto di più. Allora, io le faccio due domande, perché grandi nomi ovviamente che hanno avuto capacità finanziaria, hanno saputo vedere quali erano i termini del minor costo del lavoro e anche la capacità magari di andarsi a insediare in paesi difficili, obiettano a questa sua osservazione. Ma avere delocalizzato è l'unica garanzia per continuare a tenere la testa, l'inventiva, il design eccetera eccetera nel nostro paese, però ovviamente io sui costi non posso essere qua competitivo con lavorazioni magari che riguardano parti della filiera con minor valore aggiunto, ma che posso fare là. Quindi le chiedo una risposta a questa prima obiezione. Poi ce n'è una seconda e le chiedo direttamente di entrare nel merito di uno dei passaggi più delicati della regolamentazione che si è introdotta nel Parlamento italiano, quello relativo al fatto che utilizziamo appunto Made in Italy, basta che ci siano almeno due fasi della lavorazione fatte qua. Sì. Ecco, quindi le due fasi, io intanto metterei obbligatoriamente la fase confezionamento, per esempio, perché il momento in cui per due fasi si intendono l'imbusto e lo stiro di un capo, allora a questo punto insomma, per stirarle non c'è tutto. Niente di italiano, no? Di italiano non c'è niente. Intanto metterei la confezione, intanto metterei i finissaggi delle materie per chi lavora con tutto in capo, adesso per chi è lettore può capire di che cosa sto parlando, le lavorazioni in lavanderia, nelle tintorie, devono essere tutte lavorazioni fatte qui in Italia. A questo punto possiamo anche accettare, ma è ovvio che non avrebbe più senso portare fuori la rifinitura su quello che è lo stiro e l'imbusto di un capo all'estero per risparmiare qualcosa. Probabilmente sarebbe meglio che qualcuno di questi imprenditori smettesse, evitasse di fare queste sfilate miliardarie pagando delle Naomi centinaia di migliaia di euro per fare una sfilata, e dovrebbero riversare tutto questo nel risparmio del prodotto, perché non è sicuramente Naomi che può far vendere un prodotto, lo fa vendere agli stupidi che leggono i giornali e si immedesimano nella parte di questa bellissima pantera nera. Però lo sappiamo benissimo tutti che non siamo uguali a Naomi, quindi... Chionna tocca uno dei punti più delicati dell'immaginario maschile italiano, Io sì, sono d'accordo con lui, però io la trovo meravigliosa, però per fare qualcos'altro di sicuro Siamo in fascia protetta, adesso la fermo immediatamente. Sono sicuro che l'onorevole Commi non farà scivoloni di questo tipo dove lei mi vuole trascinare su un terreno saponoso, no, però poi dobbiamo tornare su questa cosa delle due fasi di lavorazione, perché è nella filiera del tessile e dell'abbigliamento, questo è un punto che spacca la comunità degli imprenditori italiani, perché è evidente che c'è da una parte chi è in cima alle filiere, cioè i grandi gruppi che dicono già questo basta, se non per dire avanza, e c'è chi invece sta nella parte bassa, media, che dice no, non basta, perché noi vogliamo una qualifica la più estesa possibile del Made in Italy, perché altrimenti non ci intendiamo ed è una cosa solo a vantaggio dei grandi gruppi. E io apertamente oggi chiedo anche agli ascoltatori come la pensano su questo, quanto deve essere estesa la definizione delle diverse procedure di lavorazione, che sono complicate ovviamente in una fase come in un settore come il tessile, perché sia davvero Made in Italy. Deve essere il più possibile integrale o se ne individuano solo alcune? Sentiremo poi gli ascoltatori cosa ci dicono. Vediamo il punto di vista di chi, come l'onorevole Commi, invece si batte nel Parlamento europeo per fare passi avanti a questa disciplina. Le inizio subito chiedendo una cosa che probabilmente di solito le si chiede solo alla fine, dopo aver spiegato che cosa concretamente sta facendo. Ci arriviamo a cosa concretamente sta facendo, ma nella sua esperienza, i paesi nord europei, diciamo così, rispetto a noi, nella tradizione delle istituzioni europee, quanto erano più forti di noi nel battersi a tutela delle loro produzioni? Ma innanzitutto io ringrazio anche l'imprenditore Chionna, perché ha totalmente il mio sostegno, e mi piace anche molto l'immagine del gladiatore, perché è un'immagine che mi si avvicina molto da novembre ad oggi per lottare per il Made in. E questa immagine del gladiatore ce l'ho soprattutto nei confronti dei paesi del nord. Riassumo la posizione di questi paesi in una frase che mi ha detto la scorsa settimana un deputato. Quando io vado in un negozio a comprare un abito, non guardo l'etichetta per vedere il Made in, ma io guardo la qualità. E allora per qualità lui intendeva sentire se il tessuto poteva essere morbido, poteva essere più o meno legato alla qualità che lui intendeva. Quindi è questo il problema che in Europa abbiamo, ovvero quello di sfatare il mito della qualità senza il legame naturalmente del territorio. Io invece cercavo di sostenere la posizione che l'identificazione del Made in Italy o del Made in, perché attenzione, su qui dobbiamo anche porre una questione di qual è la competenza. Cioè, io approvo pienamente la lotta del Made in Italy, però consideriamo che siamo all'interno di un'Unione Europea, quindi la lotta deve avvenire a livello europeo. E che avevamo anche sentenze, infatti, della Corte di Giustizia, per cui che inibivano, insomma, dicevano che era sbagliato indicare l'origine dei prodotti tra diversi paesi del mercato interno, con l'idea che appunto fosse il mercato interno l'ambito da regolamentare. Assolutamente, perché con la legge nazionale, quindi la regolazione Versace, che di principio è inattaccabile, quindi assolutamente corretta, però si va contro il trattato, o in particolar modo l'articolo 34. Questo potrebbe richiedere un'infrazione. Ecco, quindi... la fermo subito qua, perché lei sa, ne parleremo poi più avanti, la legge Reguzzoni Versace nasce anche con un movimento dal basso, che anche quello ha fatto dividere e spaccare Confindustria. Quando la prospettiva diventa quella di un'infrazione, di fronte a questa prospettiva, cioè una prospettiva di scontro istituzionale, il suo approccio qual è? Tentiamo di disciplinare e accompagnare la fase combattiva stemperandola, oppure per una volta in sede europea facciamo quello che fanno talvolta i grandi paesi che di fronte a procedure di infrazioni che considerano però dannose per il proprio interesse nazionale si snuda la spada e si va in campo, insomma? Ma io preferisco la seconda opzione, nel senso che il mio obiettivo da novembre ad oggi è quello di trovare una soluzione che possa essere europea. Come diceva l'imprenditore Chionna, le due fasi su quattro sono un inizio dove nella seconda lettura che faremo proporremo quindi l'obbligatorietà per il confezionamento come una delle due fasi, ma quello che abbiamo fatto in più in Europa rispetto quindi all'ambito italiano è il famoso 100% Made in Italy o il 100% Made in dei vari stati membri. Questo cosa vuol dire? Che se uno produce quattro fasi su quattro avrà la possibilità di poter indicare il 100%, ciò che non è contemplato nella Reguzzoni Versace, ma non è stato contemplato fino ad oggi. Quindi siamo assolutamente per una maggior protezione sia dell'impresa, ma in questo caso del consumatore. La chiave di successo, perché vorrei ricordare che in votazione in plenaria, e questo è stato proprio l'elemento scatenante, abbiamo ricevuto 505 voti a favore, in Parlamento siamo circa 700, quindi anche i paesi che inizialmente erano contrari hanno votato a favore del Made in per una protezione del consumatore. Quindi il consumatore diventa in questo caso l'elemento chiave per raggiungere effettivamente il Made in e non più la piccola o la grande impresa. Perché vede, io la difficoltà che ho trovato in questo lavoro, per carità sono alla prima legislatura, quindi ritengo sia importante anche questa esperienza, che tanti chiedono il Made in e poi quando lo si propone si tirano tutti indietro. Questa è un'altra difficoltà che ho riscontrato, perché le piccole sono a favore, alcune grandi invece non sono così a favore del Made in e le difficoltà prima della votazione ci sono assolutamente state di tentativi di boicottare questa votazione favorevole. Non è che in Parlamento europeo il lavoro che state facendo avanza fino a numeri così importanti, ma poi quando si tratta di arrivare al Consiglio europeo, che è la cosa fondamentale per i regolamenti, per la parte normativa, che poi fa testo, perché non dimentichiamo che il più della normativa in un paese come l'Italia, come in tutti i paesi membri, è quella di recepimento europea, e che poi invece nel Consiglio europeo le barriere sono ancora alte nei confronti della posizione italiana? Sì, effettivamente il problema del Consiglio c'è e c'è sempre stato. Con il Trattato di Lisbona però il Parlamento ha un maggior potere, quindi ha un potere sicuramente più incisivo rispetto a quello che aveva negli anni passati. Che cosa dobbiamo cercare di ottenere tramite il Consiglio? Sicuramente il cosiddetto Sistema Italia. Cioè è ora che il Sistema Italia e la coesione, e qui mi appello a tutti gli imprenditori di darmi una mano, di sostenermi anche con altri loro colleghi stranieri per cercare di ottenere una maggior sensibilizzazione verso il Made in con le loro confindustrie straniere, con i loro stati membri. Questa è la soluzione. Non abbiamo moltissimi paesi contrari, ma alcuni di questi sono veramente dei grandi paesi europei. Per esempio, perché lei è diplomaticissima, ovviamente non fa nome, però a chi è in ascolto forse sapere qualche grande nome non ma troppo Germania favorevole. La Germania è uno dei paesi non era favorevole, tra questi poi abbiamo anche l'Inghilterra. L'Inghilterra vede, noi in questo regolamento, che attenzione, a differenza di una direttiva, il regolamento non può essere modificato da nessun Stato membro, quindi dà una maggior garanzia alle imprese, una maggior competitività a livello europeo. L'Inghilterra, quando abbiamo chiesto un'armonizzazione delle taglie, ha avuto una posizione totalmente avversa e quindi ha inglobato anche l'aspetto del made in. Io quello che credo è un'armonizzazione del sistema oltre che a una semplificazione. Abbiamo veramente bisogno in questo caso di un sistema Europa, e gli stessi imprenditori, come l'imprenditore Chionna, ben venga la sua campagna pubblicitaria, ma io chiederei anche di sensibilizzare i suoi colleghi stranieri per dare una mano a noi che dobbiamo portare avanti le leggi. Ed è questo ciò che Confindustria tenta di fare con le organizzazioni sorelle in Europa. Ora, il puntigliosissimo pubblico di la versione di Oscar fa notare che i gladiatori erano più stranieri, erano assoldati in tutte le province dell'impero, e mentre invece qui è una battaglia per Made in Italy. Non a caso però Chionna nella sua campagna, il titolo che trovate sopra è l'italico, perché l'italico era proprio una tipologia di gladiatore. Questo per farvi capire quanto i nostri ascoltatori sono pugnaci nel tentare di beccarmi in contraddizione. Vedete, alcuni in ascolto mi dicono: ma come, Giannino, tu sei di solito un liberista che comunica sempre chi è contro il libero mercato, e adesso che fai, ti scopri protezionista? No, cari ragazzi, sentiamo di capirci bene. Proprio perché il mercato è libero e l'imprenditore è libero di scegliere dove allocare al meglio le proprie risorse per ottenerne il massimo della redditività nel mondo, e il consumatore è libero poi di scegliere che cosa comprare, cosa mettersi addosso, la questione è che una fair competition, cioè regole di un commercio equo, ben scritto per tutelare tutti, e devono per così dire consentire l'informazione più precisa possibile al consumatore, perché il consumatore possa sceglierla in maniera consapevole, quello che compra, si mette addosso, che cosa davvero sta comprando. E un paese che ha la vocazione manifatturiera e le specializzazioni, i primati che noi abbiamo, deve nell'ambito di questa regola semplicemente tentare di non essere fesso, come invece altri paesi non sono tradizionalmente, e quindi nell'ambito del libero mercato battersi perché la qualificazione, gli obblighi di informazione e trasparenza al consumatore siano più precisamente orientati anche alla migliore definizione possibile delle caratteristiche delle nostre produzioni e delle nostre eccellenze. Quindi non sono mica diventato autarchico, però sono per obblighi di trasparenza nell'informazione, questo sì. Ed è ovvio che quando si tratta di qualificare poi cosa sia davvero il Made in Italy, parliamo per esempio della legge Reguzzoni-Versace, in cui si dice indicazione obbligatoria del Made in Italy solo se almeno due delle fasi di lavorazione su quattro, filatura, tessitura, nobilitazione e confezionamento, sono svolte in territorio nazionale. È ovvio che poi nel dibattito su questo c'è stata molta discussione, per così dire. I grandi gruppi consideravano questa come una definizione già troppo stringente, grandi gruppi italiani che sono molto presenti sui mercati stranieri, quindi non è affatto una discussione autarchica. Sentiamo un po' di ascoltatori che poi i cui commenti proponiamo ai nostri ospiti. Cominciamo con Fabio da Torino. Prego, Fabio. Buongiorno, io appartengo ad un gruppo che attualmente è sede a Bologna, distribuisce nelle 15 repubbliche russe, adesso stiamo aprendo in India, i principali e più importanti marchi del design dell'arredo bagno italiano: Jacuzzi, Jessi, Sicis, nelle ceramiche e tutte le altre aziende. La mia idea è molto semplice. Attualmente dirigo la direzione commerciale dell'Italia dedicata al wellness. E c'è una tutela adeguata di questi marchi italiani nei mercati delle repubbliche russe in cui esportate? Assolutamente no, non c'è nessun tipo di tutela tranne quella della capacità dell'impresa di darci degli strumenti per comunicare la nostra italianità. La capacità di progettare, di avere disegno e comunicazione face to face con tutti quelli che sono i nostri rivenditori lì, e quindi loro che trasferiscano questa cosa ai loro clienti, è l'unica vera grande garanzia che ci permette di vendere ad esempio delle Jacuzzi vasche Whirlpool da 14.000 euro e competere con tranquillità vincendo con l'invasione cinese che vende Whirlpool a 3.000 euro, sostanzialmente uguale, cambiando solo una lettera del nome. quello che ecco, voglio dire. Fabio però ci propone un problema. Sì, capacità commerciale per vendere miglior qualità a prezzi molto più elevati, però ovviamente esiste un problema di tutela che deve affiancare e sostenere la capacità commerciale di marketing delle imprese, ed è di questo aspetto della tutela che ovviamente parliamo oggi. Sentiamo Alain da Pordenone, prego, rapido. Sì, buongiorno, buongiorno. Secondo me stiamo giocando con le parole, finché giochiamo con le parole non andiamo da nessuna parte. Io ricordo negli anni 80, avevo solo 10 anni, ci vendevano la delocalizzazione, faccio bene sì, lo spelling, come un'innovazione, come l'esportazione dell'italianità nel mondo. Adesso stiamo raccogliendo i risultati e io non vado. Quindi lei dice non bisogna penalizzare chi ha delocalizzato, lei è proprio radicale. No, io dico di far fuori chi ha delocalizzato, perché proprio si vendevano la delocalizzazione come la vendita dell'italianità. La delocalizzazione non è altro che il giochino della parola che stiamo facendo adesso, made in è il participio passato del verbo fare, è fatto, quindi se è fatto in Italia, se non è fatto in Italia è fatto fuori, non può essere fatto un pochino qua e un pochino là. Ecco, grazie a lei perché ci ha spiegato che far fuori significa un'indicazione che non è fatto in Italia, non far fuori nel senso di spada alla mano come sembrava, visto che stiamo usando anche immagini gladiatori. Sentiamo Massimo da Como, prego Massimo, rapido anche lei. Buongiorno, io lavoro per un gruppo tessile casa, gruppo Gabel, che è rimasto in Italia, nel senso che dalla filatura in poi a tutti i processi di produzione. Tutti? Sono ancora, veramente tutti i processi? Veramente tutti? Sì, sì, sì. Si può anche come fate a competere sui prezzi? E infatti non competiamo sui prezzi, cerchiamo di cavarci. Il problema principale che sto notando, di cui volevo parlare, era è su due versanti. Uno, quello estero, di cui io mi occupo, e ovviamente lei immagina che è impossibile andare da un grande compratore estero, dove tu devi comunque fare misure speciali in ogni paese, inclusa la Svizzera italiana, perché i materassi cambiano, perché tutto cambia, quando degli attori internazionali enormi, come per esempio IKEA, mi spiace farne il nome ma è necessario come esempio, arriva in Italia con misure svedesi, vende i cuscini degli gnomi più piccoli, la gente li compra e dice: oh, che strano, la federa non va sul cuscino, vabbè, comprerò il cuscino all'IKEA, e avanti così. Ovviamente chi ha scelto di rimanere qua, e noi siamo in 700, non siamo in 4, dobbiamo lavorare il doppio, e quando andiamo all'estero diciamo avremo le misure italiane a magazzino, possiamo fare servizio su quelle, ci ridono in faccia, ci dicono bene la qualità italiana, ma mi fai 3 lenzuola nella misura svedese, se sono svedese, capisce? Questa è la prima cosa. Seconda cosa, immaginerà anche lei, la GDO ovviamente ti prende per il collo e ti dice: questi mi fanno queste condizioni, questi altri, queste altre. Siccome, come diceva l'ascoltatore di prima, finché c'è questa nebulosità, un po' fatto in Italia, un po' no, l'etichetta made in Italy, beh, ci può stare. Noi competiamo con gente che compra semilavorato in India, in Pakistan o in Cina. Ci metti comunque l'etichetta made in Italy. Se una massaia italiana non è di vecchio stampo, non è capace di toccare o addirittura odorare, solo con l'etichetta viene tratto in inganno. Vedete, Massimo da Como ci dice anche l'attuale denominazione del Made in Italy a chi come noi, come il gruppo cui lavoro, tentiamo di tenere tutte le lavorazioni in Italia, purtroppo ci obbliga a una competizione ad armi impari. Sentiamo cosa ne pensa Roberto Belloli, che è un imprenditore tessile, che fa parte di quel movimento grasso, cioè quello che si è determinato nella scorsa primavera estate del 2009 dalla base, scavalcando anche un po' le logiche tradizionali di Confindustria, anche se molti sono iscritti a Confindustria, questi contadini del tessile che poi con l'onorevole Reguzzoni della Lega e poi insieme al progetto di legge Versace hanno portato in pochissimi mesi il Parlamento italiano a la norma di cui abbiamo parlato all'inizio, questa delle 2 fasi di lavorazione su 4, e a Belloli, che è stato uno dei protagonisti di questo movimento di autoconvocati dal basso, chiedo, ecco che le obiezioni che faceva Massimo da Como dicono anche la legge Reguzzoni in realtà non è che risolva molto. Cosa si risponde? Buongiorno a tutti, grazie dottor Giannino. Allora, io rispondo a questo. Innanzitutto dobbiamo fare una considerazione. Quello che abbiamo oggi in Italia, per cui la legge che è stata pensata in sostanza per difendere il prodotto, è stata fatta ragionando su quello che effettivamente oggi in Italia c'è. per cui noi abbiamo considerato il fatto che purtroppo alcune fasi del processo di lavorazione della filiera tessile produttiva non ci sono più. Perché sono state massacrate da una tale competizione sui costi che sono fuori. Perfetto, soprattutto quello che riguarda le grosse produzioni, cioè quelle che occupavano grandi quantità di manodopera. Parliamo in modo particolare delle filature. Certo. Per cui io sono al 100% d'accordo con il signor Chion che sarebbe molto bello poter produrre il 100% in Italia, ma purtroppo anche il cotone con il quale sono prodotti i pantaloni del signor Chion purtroppo non è italiano. Perché? Perché purtroppo le filature in Italia non ci sono più. Allora, la legge che è stata pensata, che è un'esigenza che viene dal basso, come noi siamo stati definiti i contadini del tessile in quanto ritorniamo alla storia del tessile, i nostri nonni erano contadini. Perché? Perché noi siamo la filiera produttiva tessile, quelli che veramente sul campo tutti i giorni hanno a che fare con quelle che sono le realtà della mancanza della materia prima, del fatto che i cinesi ci stanno strangolando con i prezzi. E purtroppo ho pensato una legge che in sostanza che cosa dice? La legge dice che bisogna piantarla di ottenere il concetto che qualità è sinonimo di marchio. Il marchio non è sinonimo di qualità, la qualità è una cosa diversa. Allora bisogna incominciare a mettere dei paletti in relazione a quello che abbiamo oggi in Italia. In Italia oggi abbiamo da salvaguardare alcuni passaggi produttivi che ci sono ancora, vale a dire quelli che possiamo salvare, vale a dire la tessitura, vale a dire la nobilitazione e alcune fasi della confezione. Ecco, dunque la posizione di Belloni è una posizione, come vedete, di realismo, cioè è inutile propugnare un ritorno ideale in Italia di pezzi interi delle filiere di lavorazione che sono già fuori, battiamoci per concentrarci su ciò che c'è e al meglio per ottenere un obbligo di informazione perché quello sia davvero rispondente, che il consumatore sappia che è rispondente al fatto che quelle fasi di lavorazione sono fatte qua e non altrove, sapendo che gli input intermedi, oltre che le materie prime, eccetera, ormai in un mondo globalizzato non torneranno mai nella loro fase originaria di trasformazione e produzione nel nostro paese. Realismo. C'è un dibattito molto terribile e molto spaccato tra i nostri ascoltatori su chi chiede la tutela, chi dice ma quale tutela, metteteci nelle condizioni di avere prodotti più bassi, poi ci pensiamo noi a scegliere, e questo mi sembra anche logico che nel mercato i punti di vista sono diversi. Io ci tengo a dire però che il dibattito che molto in fretta, per capo molto sintetico, vi abbiamo proposto oggi sulla tutela del Made in Italy e del Made in Europa deve tentare di individuare su base realistica non l'abolizione del commercio mondiale su base aperta, perché questa è una follia, ma come un paese con le nostre eccellenze deve tentare di andare ad armi pari per avere l'informazione più precisa possibile ai consumatori su la difesa anche della qualità di ciò che c'è nel nostro paese e che fa la differenza di qualità, e che il consumatore deve essere messo in condizione di scegliere proprio perché non c'è sotto questo un trucco, per così dire. E allora per l'imprenditore che abbiamo sentito prima, Belloni, che difende le Guzzoni, ce ne sono altri come Luciano Barbera, abbiamo sentito molte volte, che invece è uno di quelli coerenti nel tentare, come Chion, di difendere tutte le lavorazioni possibili in Italia. E a questo punto però, tra il realismo e la difesa invece di una trincea più avanzata e di meno furberie anche da parte di imprenditori italiani e forse di un po' di localizzazione in meno, anzi parecchia localizzazione in meno, io torno a sentire l'opinione finale di Chion per chiedergli qual è il suo bilancio finale di questa campagna di sensibilizzazione, cioè gli sembra che i suoi colleghi imprenditori abbiano recepito quello che c'è nel suo appello, che è condiviso da moltissime firme nel suo settore, oppure no? E poi sentiamo l'opinione dell'onorevole Comi. Prego, Chion. Ah, ecco, no, avevo capito l'onorevole. Dicevo che io ho ricevuto tantissime telefonate dopo che è uscita la pubblicità da parte di colleghi e anche di clienti, soprattutto, che hanno ringraziato per questo perché ci siamo battuti e continueremo ancora, questo è solo l'inizio. Quello che volevo aggiungere era che se noi andiamo a vedere alcune trasmissioni che sono state fatte, televisive, come Report, che ha praticamente messo su piazza tutta la realtà vera, perché lì ci sono documentazioni che non si possono negare. La Sabrina Giannini fece dei stiamo dei parlando anche, per essere concreti, di grandi marchi della moda italiana che in alcune, ecco, che in alcune parti d'Italia, diciamo, fanno arrivare in container cose che non sempre le dogane vedono e poi ci schiaffano la loro bella cosa. Bravissimo. Io se vuole posso fare dei nomi, non ho nessun problema a farli, a partire da Della Valle, che è stato, è colui che dice di produrre tutto in Italia, in realtà ci sono documenti che dimostrano che viene fatto parecchio e parecchio lavoro fuori, quindi la gente può comprare i suoi prodotti tranquillamente perché comunque lui è uno che fa ottimi prodotti, però non può venderli come Made in Italy, perché sono prodotti che vengono fatti all'estero, hanno dimostrato di essere stati fatti in Cina, hanno dimostrato di essere stati fatti da dei laboratori cinesi, quindi questo purtroppo è innegabile perché ci sono le telecamere che hanno ripreso tutto. Quindi dovrà dare delle risposte oppure metterà dentro un'etichetta diversa da quella del Made in Italy. Questo è un esempio palese. Comunque io ritornavo al discorso della defiscalizzazione, perché se ci permettono di pagare meno sicuramente possiamo comprare i prodotti in Italia. Ritornando anche a prima, che mi è stato detto che non, i nostri tessuti non sono fatti totalmente in Italia, anche questo è sbagliato, perché io ho visitato le fabbriche dove vado a comprare i tessuti, ovviamente non tutte, quindi qualche tessuto può anche essere che non è totalmente fatto in Italia, ma ho visto proprio il filo partire per essere tessuto, quindi è logico che il fiocco del cotone non posso verificare da dove arriva, anche perché qui in Italia non esistono situazioni dove si impianta, le piantagioni di cotone non ci sono, quindi vengono per forza dall'estero, ma perché in Italia proprio non le hanno mai fatte, non le faranno mai. Però il filo l'ho visto costruire qui e tessere qua tutto il tessuto, quindi questo è quanto. Ecco. Grazie a Chionna e onorevole Comi, le prossime battaglie al Parlamento Europeo in sede europea per fare procedere questa linea, ci parlava prima dei grandi numeri che siamo riusciti ad allineare con l'impegno di chi ha condiviso questa battaglia del Made in, con lei quali sono in concreto? Sì, io innanzitutto vorrei dire che quello che stiamo discutendo ora al Parlamento non è una promessa che io faccio agli imprenditori, ma è qualcosa che realmente è avvenuto, perché spesse volte ci sono delle persone sfiduciate dalla politica e in questo caso potrei dire un passo l'abbiamo fatto e un passo verso qualcosa di concreto. Quando ha telefonato anche il dottor Belloli, con il quale ho collaborato con Confindustria, quindi l'area di azione è stata di coinvolgere assolutamente tutti. Proprio per questo l'obiettivo era quello di dividere sia coloro che hanno ottenuto e hanno mantenuto tutto in Italia, sia coloro invece che hanno due fasi su quattro con una ben differenza, 100% e Made in Italy. Quello che dobbiamo fare ora, manca poco, perché manca poco ad ottenere un risultato finale. Io confido a settembre di ottenere l'ultima, la seconda lettura, quindi la decisione conclusiva. Il problema oggettivo, il problema politico che si viene a porre è quello della presidenza belga, perché ricordiamo che ora c'era una presidenza spagnola, quindi molto favorevole anche all'aspetto del Made in, il primo di luglio cambierà il nostro interlocutore e sarà una presidenza belga. E diciamo che a quel punto la presidenza belga significa tornare sotto una direttrice prevalente di quei grandi paesi che tradizionalmente, rispetto a questa impostazione nostra, mettono più bastoni tra le ruote che tentare di pedalare insieme a noi. Quindi appuntamento a settembre, subito dopo l'estate, e rifaremo il punto con l'onorevole Lara Comi. Ohimè, il tempo è tiranno, ma spero di aver restituito ai nostri ascoltatori uno spaccato sincero, che quindi non si nasconde dietro gli interessi solo dei grandi gruppi italiani che hanno delocalizzato, del dibattito interno alla filiera come quella dei tessili italiana, con punti di vista diversi anche dei consumatori, e una politica che tenta di dare qualche risposta concreta e che si è spaccata, perché guardate che la Reguzzoni è stata una crisi della rappresentanza politica, partendo dal basso e con altri partiti della maggioranza che guardavano in sospetto la manovra leghista di mettere le mani in questo tipo di rappresentanza. Quindi insomma tentiamo di capire davvero come se nel libero mercato ci si può battere ad armi pari, talvolta anche con la spada sguainata. Grazie ai nostri ospiti, onorevole Comi, a Carlo Chionna, l'italico gladiatore, a Roberto Belloli, a Luciano Barbera, che ho potuto solo evocare senza chiamarlo in causa. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. E in redazione ad Alessandro Marco Tulli, l'appuntamento a domani.